E allora di che noi possiamo pensare di tornare a costruire, a fare politique politicienne passando attraverso la ricostruzione delle politiche. E la ricostruzione della politica oggi è politica di resistenza. Chi pensa che sia conservatore la politica di resistenza? E invece non capisce. Che l'uomo forte, che la guerra di cui parlava Capriccioli non è, lo diceva Mitterrand, le nazionalismo è la guerra. E sono partiti dicendo che bisognava essere contro l'Europa perché l'Europa era poco democratica. Ma oggi ci dicono Italia sovrana. Il sovranismo, non la democrazia, è la loro preoccupazione. È il sovranismo dei vecchi stati nazionali. Allora oggi la resistenza è su questo. E poi certo, ognuno ha le sue. Io ho quella del debito pubblico, perché col debito pubblico che abbiamo noi non arriveremo mai a fare nulla sul territorio, come non faremo nulla sul turnover. Ma ragazzi, c'è una generazione, noi abbiamo. Una generazione, ci lamentiamo che manca la natalità, eccetera. Ma noi l'ultima generazione la stiamo sacrificando. In qualsiasi ministero vai, trovi che il più giovane c'ha 50 anni. E questo ormai si sta verificando nelle fabbriche, nelle aziende, nei posti di lavoro. Quindi stiamo sacrificando una generazione. I bonus fiscali, nessuno che ha mai pensato, ieri Visco l'ha detto. Ma investiamo sulla ricerca, investiamo sulle cose, cioè rimettiamo l'impoverimento dei ceti medi, l'impoverimento dei nostri figli, dei nostri nipoti, a cui non diamo neanche lontanamente la possibilità che noi, che la nostra generazione ha avuto. Allora di queste cose, ma se ne possono aggiungere tantissime altre, però dobbiamo necessariamente partire, 9 punti sono già tanti. Ne possiamo aggiungere 10, 10, 11, 12, torniamo nel programma. Dobbiamo invece stabilire delle priorità. In questo momento le due priorità che vanno governate che è la resistenza sull'Europa e. Rispondo a Rocco Berardo. Eh sì, la conservazione dell'Europa. Ma scusate, ma siamo conservatori dell'Europa? Stiamo dicendo da anni. Che siamo contro l'Europa intergovernativa. Stiamo dicendo che cosa vogliamo, anche in rotta con altri federalisti europei, che ci dicono che bisogna invece proporre di più e non avere timore. Quindi che conservatorismo è? Ma l'illusione che qualcuno nutre e coltiva, che si possa in nome dell'Europa di Spinelli, combattere questa Europa per far avere un'Europa più bella, quella di Spinelli, ci porta semplicemente, puramente e semplicemente ad aiutare quelli che combattono questa Europa non per avere un'Europa di Spinelli, ma per farci tornare agli stati nazionali. E allora un'operazione di verità è quella di dire. Gli stati europei contro i quali oggi stanno lavorando Putin e Trump e Trump e probabilmente la May, probabilmente non è, il gioco non è fatto, ma pensate un po', è embrionale questa Europa, eh? Ma questa Europa embrionale ha consentito l'accordo sull'Irlanda del Nord. Ed oggi gli irlandesi del Nord, non quegli altri. Dicono, badate che se crolla l'Europa, crolla quell'accordo. E non illudiamoci che non si riproporrà il problema del Sud Tirolo, il modello che Pannella proponeva per la soluzione del Tibet alla Cina. Cioè il problema fra l'andare avanti o riprecipitare indietro è il vero problema che dobbiamo avere avanti. E oggi lo si affronta soltanto avendo la capacità, guardando avanti con grande visione, di dire intanto resistiamo e riproponiamo tutta intera di fronte alla demagogia e alle spinte populiste che avanzano, riproponiamo tutta intera le ragioni delle nostre ideali, delle nostre posizioni di fondo.